13. GR24, il sole 24 ore. A Pasqua stangata benzina, ferma le vendite al dettaglio, bene solo i discount. In Libia la rivolta dei soldati, centinaia tra le truppe di Gheddafi si consegnano alla frontiera tunisina. In bilico anche il referendum sull'acqua, il governo pensa ad un altro passo indietro. Omicidio De Mauro, chiesto l'ergastolo per Totorina. Pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Pronto? Pronto? ACI, pronto? E buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Ci abbiamo scherzato un po' su, ci siamo affidati ad un classico dei film italiani che raccontano le partenze, perché in molti sono già in viaggio per le vacanze di Pasqua. Il picco è atteso nel pomeriggio e allora sentiamo anche noi le previsioni, ma per gli automobilisti, come sentivate nei titoli, già si annuncia una stangata per il prezzo della benzina. Le vacanze pasquali prendono il via con traffico da bollino rosso e previsioni meteo non molto invitanti, anche se le tradizionali gite fuori porta non sembrano poi così a rischio. I meteorologi fanno sapere che domenica il tempo sarà instabile, in particolare sul centro-nord e sulla Sardegna, con qualche nuvola e piogge sparse. A Pasquetta invece le nuvole si sposteranno al sud. Nel weekend pasquale si concentrerà la gran parte delle partenze dei circa 8 milioni di italiani che ad aprile si concederanno qualche giorno di vacanza. I turisti che si sposteranno in treno sono oltre 2 milioni e mezzo. Secondo le ferrovie, la scelta del treno sottrarrà 1 milione e 400 auto da strade e autostrade, dove comunque già in queste ore il traffico è intenso, soprattutto in uscita dalle grandi città. La società Autostrade ricorda che dalle 16 di oggi scatterà il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22. Un nuovo stop è previsto per sabato dalle 8 alle 16 e domenica e lunedì dalle 8 alle 22. Per vigilare sulla circolazione saranno dispiegate ogni giorno 1500 pattuglie della Polizia Stradale e 11.000 dei Carabinieri. Per gli automobilisti italiani intanto è in arrivo una nuova stangata, secondo il Codacons, a causa del caro carburanti. Per fare rifornimento a Pasqua e Pasquetta spenderanno 35 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a Napoli rischia di essere una Pasqua tra i rifiuti. Lo chiediamo a Paolo Picone. Sì, buongiorno. Come già accaduto a Natale, si profila a Napoli una Pasqua con lo stesso panorama di sempre, cioè di cumuli di rifiuti sparsi per le strade. Dunque è veramente una settimana di passione per i napoletani, in senso liturgico e purtroppo anche olfattivo, causa spazzatura. Ieri notte i vigili del fuoco sono stati ancora super impegnati a Napoli e in provincia, circa una quarantina gli incendi spenti. Particolarmente colpito il centro storico del capoluogo partenopeo, con decine di squadre impegnate, numerosi anche gli incendi appiccati dai cittadini esasperati dall'odore nauseabondo proveniente dai comuni di immondizia in via Emilio Scaglione, nel quartiere periferico di Chiaiano, dove è localizzata l'omonima discarica, e la diossina sprigionata fa peggio della puzza, pure insopportabile. Esasperati napoletani che andiamo ad ascoltare e poi linea allo studio. Si passano la valle e nessuno cerca di risolvere i nostri problemi. È un disastro e mai si risolverà. Siamo come Fukushima, peggio di Fukushima. Ci vogliono le bombe. Qua paghiamo centinaia di milioni di immondizia. È una cosa impossibile e non so come si deve fare. Io, se fosse per me, me ne scapperei da Napoli, subito. Ci sarà sempre la paura di una nuova emergenza, perché non hanno fatto niente, non è che hanno speso qualcosa, hanno fatto inceneritori, non hanno fatto niente. È una città così bella, vedersela ridotta così è brutto, è devastante. E torniamo in studio. A influire negli ultimi mesi sul prezzo della benzina le tensioni anche in Libia. Oggi su questo fronte arriva la notizia che potrebbe preannunciare una svolta. Sono più di 100 i soldati libici che nelle ultime ore, incalzati dall'offensiva dei ribelli anti-Gheddafi sul versante occidentale del paese, hanno passato il confine tunisino per consegnarsi. I militanti hanno attraversato la linea disarmati dopo aver abbattuto l'immagine del Rais che campeggiava al confine. Tra essi ci sarebbero anche numerosi ufficiali. Sentiamo allora Alberto Negri. La diserzione di un centinaio di soldati libici ai confini della Tunisia in qualche modo conforta i piani occidentali. È questa la tattica del logoramento che vorrebbero americani, francesi, inglesi, italiani per tentare poi di sbalzare dal potere Gheddafi. Una tattica di logoramento che finora ha funzionato soltanto parzialmente, perché i raid aerei non sono riusciti a abbattere il regime di Gheddafi, che continua ad assediare Misurata, diventata una sorta di Sarajevo del Nord Africa. Ma nel frattempo gli americani hanno preso anche un'altra decisione che potrebbe in qualche modo contribuire a sbilanciare le forze in campo, cioè l'utilizzo dei droni, gli aerei senza pilota, quelli che sono stati abbondantemente utilizzati sia in Pakistan che in Afghanistan. Ma basteranno i bombardamenti aerei per abbattere il colonnello? Forse questa è una tattica che potrebbe durare ancora molte settimane o addirittura alcuni mesi. Vedremo se ci riusciranno. Certamente la Libia sta diventando una sorta di Kosovo dell'Africa del Nord. E in Siria un'altra giornata di proteste a Damasco. Le forze di sicurezza siriane hanno sparato gas lacrimogeni poco fa contro i manifestanti anti-regime. Sono centinaia in piazza anche oggi. Torniamo in Italia. Caccia al boss della Camorra. Decine di perquisizioni sono in corso ormai da alcune ore a Casa Pesenna, in provincia di Caserta. Al momento risultano fermate 8 persone. Le ruspe sono entrate in azione in un'abitazione nel cui sottosuolo potrebbe esserci un nascondiglio. I carabinieri, secondo indiscrezioni, sarebbero alla ricerca del super latitante della Camorra, Michele Zagaria. E a Palermo è arrivata la richiesta di pena per l'omicidio del giornalista Mauro De Mauro. Totorina era collegato in videoconferenza mentre il procuratore Ingroia chiedeva alla Corte la sua condanna all'ergastolo per avere dato ordine agli uomini di Cosa Nostra di prelevare, sequestrare e uccidere il giornalista Mauro De Mauro. La richiesta è arrivata al termine della requisitoria nel processo in corso a Palermo sull'uccisione del cronista dell'Ora assassinato il 26 settembre del 1988. L'accusa ha chiesto anche la pena accessoria dell'isolamento diurno per 3 anni, che forse è peggio dell'ergastolo per il padrino di Cosa Nostra, che in carcere, con le condanne già accumulate, ci resterà comunque a vita. Lui, Rina, è l'unico imputato, ma l'accusa ha sottolineato che l'omicidio di De Mauro non è stato compiuto solo nell'interesse di Cosa Nostra. Le inchieste del giornalista sulla morte di Enrico Mattei e sul golpe borghese, due dei grandi misteri della nostra storia recente, sarebbero tra le ragioni che avrebbero portato al suo assassinio. Al termine della requisitoria il procuratore Ingroia è volato a Parma, dove oggi pomeriggio verrà interrogato Massimo Ciancimino, il figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo fermato ieri con l'accusa di calunnia. Dovrà spiegare ai PM perché avrebbe falsificato un documento consegnato agli inquirenti inserendo il nome di Gianni De Gennaro tra i presunti artefici della trattativa tra Stato e mafia all'indomani delle stragi del 92 e del 93. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un altro referendum rischia di saltare dopo quello sul nucleare definito inutile dal governo dopo lo stop al programma italiano. Parliamo del referendum per la privatizzazione dell'acqua. L'idea, lanciata dal ministro per lo sviluppo Romani, di un approfondimento legislativo per evitare il doppio referendum sull'acqua solleva reazioni e polemiche. Contro la possibilità di una nuova legge che riduca la tornata referendaria del prossimo giugno al solo sì o no all'abrogazione della legge sul legittimo impedimento processuale, insorgono i promotori del comitato Due Sì per l'acqua pubblica. I referendum sull'acqua hanno ottenuto le firme di 1.400.000 cittadini, sottolineano dal comitato, che denuncia il tentativo di governo e poteri forti di disciplinare, oltre al voto sul nucleare, anche quello sull'acqua. I Verdi con Bonelli parlano di gravissimo esproprio di democrazia, Felice Belisario dell'Italia dei Valori di un altro imbroglio dopo quello sul nucleare, mentre Nichi Vendola e Paolo Cento di Sinistra Ecologia e Libertà lo definiscono un furto di democrazia. Dal WWF, tuttavia, il presidente Stefano Leoni apre uno spiraglio, ma con molti dubbi. Se il governo fa un passo indietro e abroga la norma che prevede l'obbligatorietà della gestione del servizio idrico integrato solamente in capo a strutture private, effettivamente abbiamo ottenuto quello che intendevamo ottenere. Noi temiamo in realtà che si possa andare a una sorta di guazzabuglio come quello del nucleare. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo alla politica. Il ministro Giulio Tremonti, nel corso del lungo faccia a faccia di ieri con Silvio Berlusconi, è tornato a ribadire che nella gestione dei conti pubblici serve prudenza e per quanto riguarda il fisco il margine di manovra è solo quello della semplificazione. Vicenda conclusa, le polemiche che coinvolgono Tremonti, Elisabetta Fiorito. Beh, non proprio, il Cavaliere cerca di mediare, ma la grana c'è, sotto accusa, come avete detto, il ministro dell'economia Giulio Tremonti, colpevole, per dirla con un altro ministro, quella dei beni culturali Giancarlo Galan, di commissionare il governo. In mezzo il giornale di proprietà della famiglia Berlusconi, l'organo di stampo dal quale è partita l'intervista a Galan. Una giornata difficile, quella di ieri, per Silvio Berlusconi, che da una parte ha dovuto rassicurare Tremonti addirittura con una nota ufficiale, dall'altra ha avuto un incontro con Galan, il quale precisa: i miei sono stati solo punti garbati, non la fine del mondo. Berlusconi difende a spada tratta Tremonti, al quale però chiede una scossa per la ripresa. Non ora, spiega il ministro, che punterebbe sul mattone per un'eventuale crescita economica. Nel frattempo dal sud arriva anche la critica del governatore della Campania Stefano Caldoro, il suo nordismo è cinico. Ovviamente difende il ministro dell'economia alla Lega Nord. Nel PDL comunque sembra regnare il caos. Berlusconi si lamenta dei manifesti antigiudici, viene incalzato da Scajola per una nuova collocazione e adesso è anche le prese con il caso Tremonti. Il Cavaliere si sarebbe sfogato, queste cose fanno solo danno. Per il momento qui da Roma è tutto, vi studio. E questa mattina intanto l'Istat ha diffuso i dati sulle vendite al dettaglio. Si dice che la ripresa non passi contemporaneamente per la finanza, le aziende e le tasche dei consumatori. Gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio lo confermano. Se mai avessimo avuto bisogno di un'ulteriore prova della debolezza della domanda interna, eccola, in tutta la sua evidenza. È come se il tempo si fosse fermato, perché tra il febbraio 2011 e lo stesso mese del 2010 non c'è stata alcuna variazione. Un timido 0,1% è stato l'incremento registrato tra gennaio e febbraio. La coperta è sempre quella, e dunque se aumentano le vendite di prodotti alimentari diminuiscono quelle di altri prodotti. Del resto il budget è più o meno lo stesso e il potere d'acquisto, come già ci ha detto l'Istat, diminuisce. Altro segnale preoccupante è il calo delle vendite negli ipermercati. Guarda caso, a questa flessione corrisponde l'incremento delle vendite per i discount di alimentari. Gli alimentari sono tutti a vario titolo necessari. Tra i non alimentari invece è stata fatta una scelta. I più acquistati sono stati i farmaci, male invece gli elettrodomestici, i giochi e gli articoli sportivi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un torrente di applausi lunghi e ripetuti, un bis chiesto con forza, così la serata all'Auditorium Parco della Musica ieri sera a Roma, che ha accolto il maestro Claudio Abbado. Musica, e oltre ad Abbado un caloroso applauso dalla sala è andato al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E alle 13:17 minuti le notizie di oggi. Di GR24 a Pasqua, stangata benzina. Spenderemo 35 milioni di euro in più rispetto ad un anno fa. Ferme le vendite al dettaglio intanto a febbraio, bene solo i discount. In Libia la rivolta dei soldati, centinaia tra le truppe di Gheddafi si consegnano alla frontiera tunisina. In bilico anche il referendum sull'acqua, il governo pensa ad un altro passo indietro. E per la cronaca, omicidio De Mauro, chiesto l'ergastolo per Totorina. Torniamo in studio per parlare della Giornata Mondiale della Terra, un'occasione oggi per riflettere sui temi dello sviluppo ecocompatibile, sulla riduzione del nostro impatto su un pianeta che rischia di non reggere il peso di una crescita irresponsabile. Paolo Piacenza ne ha parlato con il presidente del WWF, Leoni. Più che un'idea, una necessità, occorre puntare alla sostenibilità ambientale. Per puntare a questo occorre far sì che i sistemi dei nostri modelli di produzione e di consumo siano il più possibile all'interno delle capacità di carico dei sistemi naturali. Quindi noi non dobbiamo consumare il capitale naturale, ma dobbiamo solamente limitarci ai servizi che il capitale naturale ci fornisce. Perché se noi cominciamo a intaccare il capitale, noi intacchiamo anche le disponibilità per le future generazioni. Il WWF propone 3 strumenti di misurazione delle nostre capacità di incidere sul capitale. naturale, e sono uno un calcolatore della nostra impronta ecologica in generale, un altro un calcolatore dell'impronta ecologica del consumatore, che noi chiamiamo carrello della spesa, e un altro è, e questa è un'aggiunta rispetto a questi due che abbiamo fatto quest'anno, un calcolatore dell'impatto del mondo delle imprese sulla loro gestione aziendale. Quindi diamo degli strumenti consultabili da chiunque voglia sul nostro sito internet, dove si risponde dandogli dei dati di consumo, di produzione, di gestione, e poi da lì esce fuori un calcolo e ci fa capire quanta, in termini di CO2, no? Quante sono le nostre emissioni da comportamento. Evidentemente è solamente un modo per far sì che ognuno di noi assuma una coscienza responsabile sui propri modelli di comportamento. Ecco, quindi l'appello è offrire, cioè l'idea è offrire un servizio per consentire a tutti di essere responsabili, siano i cittadini, siano le imprese. Certamente, tutti quanti dobbiamo collaborare, ognuno con il proprio singolo gesto, affinché ci sia un modello di crescita e di convivenza responsabile, anche non solamente per chi vive oggi, ma anche per quelli che verranno domani a vivere il pianeta. E sempre Paolo Piacenza ha sentito anche Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club, direttore responsabile della rivista Quale Energia. Fukushima offre una opportunità straordinaria di un ripensamento delle strategie energetiche. Parlo dell'Italia in particolare, che ha imboccato questa strada, che ha deciso di non proseguire, ma è un discorso più generale, riguarda sicuramente la Germania, che è anche più avanti di noi nella scelta degli scenari alternativi. È iniziato un processo di trasformazione del sistema energetico mondiale con le rinnovabili che stanno facendo irruzione. Pensiamo al fotovoltaico, che è aumentato del 139% nel 2010 rispetto al 2009. E Fukushima può rappresentare l'occasione per raggiungere obiettivi ambiziosissimi che ci sono sul versante climatico, meno 80% delle emissioni di gas climalteranti nel 2050, puntare con rigore e radicalità su efficienza energetica rinnovabile. Sul fronte della consapevolezza possibile, che cosa si può indicare come obiettivo? Quest'anno la Giornata della Terra significativamente è lanciata con l'idea di 1 miliardo di azioni ecocompatibili, e cioè di fronte alle difficoltà della diplomazia internazionale, degli stati, dei governi di mettersi d'accordo, pensiamo alle difficoltà di raggiungere un accordo sul clima, ripartiamo dal basso con molte azioni dei singoli, che vanno dai mezzi di trasporto agli acquisti che si fanno nella propria abitazione, sugli elettrodomestici, sui sistemi di illuminazione. Effettivamente centinaia di milioni di piccole azioni sono quelle che cambiano. La realtà però è che si deve strettamente legare questa spinta dal basso, che sta diffondendosi effettivamente, con una azione lungimirante e strategica dei governi. E oggi, dicevamo, 41esima giornata della Terra. A proposito di Fukushima, intanto il governo giapponese ha ordinato l'evacuazione di altre 5 città fuori dal raggio di 20 chilometri dalla centrale. Ha approvato oggi anche lo schema del cosiddetto extra budget da 4.000 miliardi di yen, circa 34 miliardi di euro, per la ricostruzione dopo il sisma tsunami. E ancora in viaggio verso le coste somale la motonave Rosalia D'Amato, sequestrata ieri dai pirati in pieno mare arabico. L'ennesimo episodio di pirateria sta suscitando disappunto tra gli armatori, che chiedono urgenti misure. Paolo D'Amico, presidente di Confitarma, la Confederazione Italiana Armatori, al microfono di Roberta Pellegatta. Sì, se noi avevamo già le norme a posto e ci permettevano di imbarcare i contractors, questo non sarebbe successo. Quindi qual è la priorità a questo punto secondo lei, e che cosa chiede al governo? Noi chiediamo che ci sia un passaggio normativo che ci permetta di imbarcare personale armato sulle navi tra il Mar Rosso e l'India, cosa che non è possibile oggi. Questi attacchi sono dal 2005, che abbiamo avuto subito 30 attacchi le navi italiane dal 2005 a oggi. Quindi è una cosa vecchia, c'è un'urgenza, fa parte delle varie urgenze, non c'è solo la Libia, c'è anche questa. Questa è una delle urgenze del paese. Ci sono 5 disegni di legge, no, alla Camera e al Senato? Esattamente, 4 del governo e 1 dell'opposizione, quindi sarebbe oltretutto un passaggio bipartisan, direi. Quali saranno i passi che farete adesso? Io sto ancora in attesa di essere ricevuto dal Ministro della Difesa, vediamo se questo succede presto. spunta una SIM card segreta nelle indagini sull'uccisione della donna di 29 anni, Melania, scomparsa lunedì pomeriggio da Colle San Marco di Ascoli Piceno e trovata uccisa mercoledì pomeriggio a Ripidi Civitella nel Teramano. Il cellulare della donna aveva la batteria scarica, ma sul corpo è stata trovata anche una seconda SIM card. Ora potrebbe fornire elementi utili per ricostruire i suoi spostamenti. A Genova in tarda nottata si è conclusa l'occupazione della sede del consolato della Tunisia. Circa 400 immigrati nordafricani nella notte da Ventimiglia hanno superato il confine con la Francia e molti avevano parenti e amici ad aspettarli. Alcune decine sono state rinviate però in Italia perché non rispondevano ai requisiti economici chiesti da Parigi. Tra un anno esatto ci saranno le elezioni in Francia. Si voterà il 22 aprile del 2012. Allora io saluto da Parigi Marco Mussanè. Buongiorno a voi. I sondaggi si susseguono. In Francia sembra sempre più certo, d'altra parte ce lo siamo detto, le politiche francesi verso l'Italia in tema di immigrazione sono lì a dimostrarlo. È l'estrema destra a preoccupare il presidente Sarkozy. Sì, sicuramente non c'è dubbio. Il sondaggio di ieri del Parisien è l'ennesima conferma della crisi di popolarità del presidente e della forte ascesa della Marine Le Pen, la segretaria del Fronte Nazionale di Estrema Destra. Teniamo conto che però i sondaggi fatti ora a un anno dall'appuntamento elettorale lasciano un po' il tempo che trovano, soprattutto perché non esiste ancora il candidato socialista che verrà deciso soltanto con le primarie di settembre, e manca anche il candidato dei Verdi. Insomma, diciamo che la Le Pen è l'unica che in questo momento sta già facendo veramente campagna elettorale, quindi è chiaro che viene premiata in termini di popolarità, di conoscenza, di mediatizzazione del personaggio. Di sicuro una campagna elettorale che per Sarkozy è già partita. Certo, lui ha il problema appunto di recuperare consenso e popolarità anche agli occhi del suo partito, all'interno del quale si stanno levando delle voci preoccupate. Credo sia impensabile che Sarkozy non si ricandidi l'anno prossimo. Certo, lui sta girando il paese per cercare di recuperare la crisi di popolarità in cui si trova, però veramente è molto presto per poter fare delle previsioni credibili e realistiche. Grazie a Marco Mussanè. Grazie a voi. E allora torniamo in studio per invece un altro argomento, perché parliamo di cinema. Esce oggi sugli schermi Faccio un salto alla Havana di Dario Baldi, commedia con Enrico Brignano e Francesco Pannofino, nel ruolo di due fratelli romani che si ritrovano a Cuba dopo 6 anni e una serie di colpi di scena. Il regista Dario Baldi commenta così al microfono di Paolo Panceri l'inedita coppia. È stata una mia idea affiancare a Enrico Brignano Francesco Pannofino, che è un attore che io adoro da molto prima di Boris. Un mix esplosivo, ci sono dei momenti esilaranti perché ho lasciato liberi tutti e due di tirare fuori il meglio dei loro talenti. Insomma, non sono dei semplici comici, sono due attori con un'esperienza incredibile, con una verve travolgente. Molte volte è proprio la sensazione di avere due fratelli veri che litigano davanti allo schermo senza ne accorgersi di stare davanti a una macchina da presa. E non poteva mancare lo sport alla vigilia ancora di un appuntamento di campionato. Saluto allora Carlo Genta. Ciao Anna, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi è il giorno delle parole, peraltro urlate, perché c'è l'assemblea di Lega a Milano, si discute, sai, di quella storia dei bacini d'utenza, no? Perché si tratta di spartire un 200 milioncini tra le varie squadre a seconda televisivi, naturalmente a seconda dei bacini d'utenza, e si litiga di brutto. E allora eccola l'ultima sulle agenzie, Carlo: non è cambiato nulla, siamo venuti a perdere tempo come tenevamo. Contrariato, il presidente del Parma Tommaso Ghirardi ha lasciato poco fa il consiglio della Lega di Serie A. Il consiglio si è spaccato, ognuno è rimasto sulle sue posizioni, aggiunto spiegando che l'assegnazione dell'indagine demoscopica decisiva dell'assemblea una settimana fa è in stallo. Sì, entrando aveva detto lo stesso Ghirardi: alla fine le grandi si facciano il loro campionato europeo, e vorrà dire che le altre 15 faranno un campionato italiano dei poveracci. Questo aveva detto entrando, quello che hai aggiunto tu lo ha dichiarato uscendo. almeno stavolta, se vogliamo vedere un aspetto positivo, non si sono picchiati, perché l'altra volta, sempre su questi ragionamenti, su questi discorsi, De Laurentiis e Rotito erano praticamente venuti alle mani, non so se ricordi. Stavolta solo parole o parolacce. In attesa, giorno delle parole appunto, in attesa di giocare domani, e già Allegri in conferenza stampa poco fa ha detto sarà partita determinante quella del Milan a Brescia. Tra l'altro il Milan andrà a Brescia domani, questo sabato prepasquale, in cui c'è tutto lo sport possibile e immaginabile naturalmente oltre al calcio. Il Milan andrà a Brescia alle 19 di domani, conoscendo già i risultati dei principali competitors, cioè dell'Inter che riceverà Lazio alle 15 e del Napoli che va a Palermo sempre alle 15. Chiuderà il cartellone domani sera nel posticipo dei posticipi Juventus-Catania. La giornata sarà aperta invece da Roma-Chievo alle 12, ma tutti questi sono discorsi che faremo domani. Intanto oggi, io ricordo, tra poco alle 14 parleremo di basket. Anna. E allora appuntamento con A Tempo di Sport e con Carlo Genta alle 14, subito dopo naturalmente l'edizione di GR24. Io vi lascio invece con Italia in controluce. Questa edizione del nostro giornale termina qui. Pietro Lacorte in regia, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.